spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Scusate, ma veramente non è che sia mio questa trasmissione. Non ci fossero Barbara Bianchi, Luca Cremonese, Anita Panizza, Alessandro Casali e tutti quelli che sopportano delle giornate molto affose e intense con me. Dove andremo a finire? Comunque, spunti di vista, affronteremo diversi temi, ma soprattutto partiremo dall'allarme di Moody, perché detto così, l'allarme di Moody sull'Italia. Secondo l'Ocse, invece, per l'economia italiana è una fase positiva in arrivo. C'è Moody che ha dichiarato attenzione, perché il PIL a fine 2014, il PIL italiano sarà a meno 0,1%, e quindi questo alzerà il rapporto deficit-PIL. Attenzione, parlate tanto di riforme, ma non ne vediamo gli effetti benefici. Dall'altra parte, subito l'Ocse, più ottimista, dice: ma non è esattamente così, qualcosa si vede. Noi abbiamo scelto di prendere una lente di ingrandimento e andare a scavare in una delle pieghe dell'economia per capire nel piccolo questa notizia, questa informazione, come si traduce, da che cosa si evince. E allora oggi affronteremo il tema delle fatture in ritardo, proprio così, nel senso che vengono pagate in ritardo. È un tema, sì, economico, ma non solo, perché ha a che fare con la crisi, ha a che fare con il restringimento del credito da parte delle banche, certo, ma anche con la mentalità italiana. Attenzione, è sempre considerato un peccato veniale in Italia pagare in ritardo. Nel secondo trimestre 2014, i dati sono di ieri, è diminuita la puntualità nei pagamenti di fornitori e partner da parte delle imprese italiane, mentre aumenta la percentuale dei pagamenti oltre i 30 giorni, con oltre 30 giorni di ritardo. Lo studio è stato realizzato da Crisis DMB e rivela queste crescenti difficoltà nel sistema dei pagamenti italiani, perché il 45,9% delle imprese ha pagato con un ritardo fino a 30 giorni medi, mentre i ritardi gravi, cioè oltre un mese dopo la scadenza, hanno registrato la percentuale più alta dal 2010. E queste non sono solo cifre, significa nella piccola impresa, per il piccolo artigiano, ma anche per la persona, perché c'è anche il problema delle false fatture IVA, perché un sacco di dipendenti di fatto dipendono da questi pagamenti. Significa problematica seria, significa non sapere e non potere pianificare a propria volta un pagamento, una sorta di circolo vizioso. Ma c'è la possibilità di intervenire, c'è la possibilità di correggere un po' il tiro? E voi, imprenditore all'ascolto, fate fatica a riscuotere a vostra volta da altri che vi devono pagare, dunque a pianificare anche un'attività, una strategia aziendale? Ne parleremo alle 8:30. Alle 9, nel corso di Spunti di Vista, affronteremo il tema della maturità in inglese. Ma ancora prima della maturità, in Italia, dal mese prossimo, a settembre, nei licei e negli istituti tecnici italiani verrà gradualmente introdotto il CLIL. CLIL è un acronimo, sta per Content and Language Integrated Learning. Quindi, che significa? Significa che nel quinto anno degli istituti superiori l'insegnamento di una materia, si parla di matematica, filosofia, ma saranno gli istituti a decidere modalità e quale deve essere, sarà insegnata in lingua inglese. E uno dice: ma benissimo, benefico per studenti, per l'internazionalizzazione dei nostri studenti. Ma poi ci si ferma e ci si chiede: è agosto, è esattamente una ventina di giorni e poi saremo sui banchi, e quanto siamo attrezzati? Come faranno i docenti italiani ad approfondire la loro conoscenza della lingua e impartire insegnamenti in inglese così tecnici e specifici?

sia insegnata in inglese. Chi la insegnerà? Gli insegnanti italiani. Come sono stati formati? Lo apprenderemo dai responsabili, da chi ha preso parte a questo tipo di CLIL, si chiama così, questo tipo di formazione. Quel che è certo però, mancano almeno 15.000 docenti rispetto ai 16.000 che sarebbero necessari, e tra poco riapriranno le scuole. Come arriva l'Italia a questo appuntamento? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Riprendiamo da giugno, 8:32, questo è Spunti di vista, ancora buongiorno da Irene Zerbini. Riprendiamo da giugno perché a giugno 2014, l'ultima volta che è stato registrato questo dato e poi analizzato, si è scoperto che il 37,4% delle imprese è stata puntuale nell'onorare le fatture, 37,4%. Questo è un dato che fa registrare un calo di 8,4 punti percentuali rispetto all'ultima volta che erano stati rilevati questi dati, cioè al secondo trimestre 2013. A quel punto già si lanciava l'allarme: la media della puntualità dei pagamenti delle fatture a fornitori e quant'altro era del 45,8, evidente. Le difficoltà del sistema dei pagamenti italiani sono aumentate. Ne parliamo con Marco Preti, che ringrazio per il suo tempo. Buongiorno innanzitutto e benvenuto. Pronto? Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno. Beh, lei è l'amministratore delegato di Crisis DMB ed è una società del gruppo CRIF specializzata nella business information. Voi avete analizzato questi comportamenti di pagamento delle imprese italiane, lo fate sempre, e quando si è andati nel dettaglio si sono scoperti alcuni elementi di preoccupazione. Alcune cifre le abbiamo date noi, vogliamo entrare nelle specifiche dei ritardi di pagamento. A quanto ammontano questi ritardi? Beh, i ritardi di pagamento, per ritardi andiamo a vedere quelli gravi, quindi quelli oltre i 30 giorni, noi siamo arrivati a un livello quasi del 16% del totale, e questo è stato l'ambito che in questo nostro studio ha manifestato l'incremento maggiore in questi ultimi anni. Mi permetta di confrontare il dato invece della puntualità che lei ha ricordato prima, perché il 37% significa poco più che un'impresa su tre. Questo è un dato tutto italiano, perché se pensiamo alla Germania, lì l'80% delle imprese paga regolarmente. Quindi, ma questo avveniva anche prima della crisi? Questi ritardi nei pagamenti sono un po' nella mentalità italiana? Diciamo sì, che anche prima della crisi l'Italia, rispetto ad altri paesi europei e mondiali, aveva un andamento leggermente più, mi faccia dire, lento nei confronti dei pagamenti. E quindi, quindi forse è oggettivamente un fatto che riguarda una modalità delle nostre imprese e del nostro paese. Però negli ultimi anni questo rallentamento è stato molto marcato, e soprattutto è stato molto marcato la crescita delle imprese che pagano in ritardo, sintomo che probabilmente non è semplicemente un uso, ma è una crisi che morde in maniera molto importante e non accenna a diminuire. Ecco. E cosa si può fare? Ne parliamo tra poco anche con Giuseppe Bortolussi. Prima però voglio dare la parola a voi, 800 24 00 24. Pronto, buongiorno. Giampaolo, buongiorno. Dica. Buongiorno. Senta, io volevo dire due cose molto molto semplici. Sarebbe sufficiente vietare la detraibilità delle fatture che non sono pagate, cioè devono essere o quitanzate o bonificate. Per cui, oppure che ci sia un impegno scritto di un bonifico a 20, 30, 60 giorni. Ma è sufficiente questo? Ci sarebbero meno truffe. Lei è un imprenditore, Giampaolo? Sì, sono stato imprenditore, adesso sono praticamente in pensione. Quindi ha avuto a che fare, ha toccato con mano questa. Certo, perché io emetto una fattura, pago l'IVA, sì, per cui io sto tirando fuori dei soldi. La persona a cui ho fatturato non mi dà i soldi, non mi paga, però lui a sua volta si detrae la mia fattura, non solo, ma si scarica anche l'IVA. Per cui lui sta truffando lo Stato e me. Sarebbe sufficiente che le fatture che non sono avanzate non possono essere detratte, punto. È una soluzione pragmatica e che risolverebbe se non tutto, perché molti di questi problemi, come abbiamo sentito, sono dovuti a difficoltà oggettive, ma che No. A lei non ci crede? No, ma è vero che uno, ma se io emetto una fattura a fronte di qualcosa che è stato fatto, cioè. Poi oltretutto tenga conto che ci sono aziende che percepiscono contributi a fondo perduto, va bene, a fronte di fatture che non hanno mai pagato. Per cui lo Stato paga in ritardo le fatture, questi non pagano i fornitori, di conseguenza è tutto quanto un giro. È chiaro che il primo a doverlo fare dovrebbe essere lo Stato, però purtroppo questo non succede. E l'aspetto dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione è un aspetto che è stato preso in considerazione diverse volte. Pensate che costa alle imprese 6 miliardi, questa è un'indagine del Centro Studi Impresa Lavoro di Udine. Oggi però noi abbiamo voluto andare a prendere in esame l'ultimissimo dato, reso noto ieri, nei rapporti tra le imprese, tra azienda e fornitore. Giuseppe Bortolussi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Segretario della CGA di Mestre, dunque un osservatorio privilegiato, diciamo così, nel senso che ha il polso di tutto ciò che è artigiano e piccola impresa. Ha sentito la soluzione indicata dal nostro ultimo ascoltatore che chiamava da Cagliari, mi dicono? Sì, dimentica però un passaggio, che la normativa nel frattempo è cambiata e per esempio il discorso del versare l'IVA non è più come prima. Te la versi quando incassi, cioè è stata introdotta l'IVA per cassa fino a un determinato fatturato, per cui salta un po' questo meccanismo che lui ha descritto. Il fatto è, come diceva giustamente chi mi ha preceduto, che c'è una certa abitudine in Italia a pagare in ritardo. Se noi guardiamo altri dati, sono ancora più chiari, descrivono questa situazione. I pagamenti, per esempio, della pubblica amministrazione verso aziende. Beh, da noi il ritardo medio è di 165 giorni. Se lei va a vedere la media europea... Hai tempo di fallire nel frattempo. Sì, appunto, è 58 giorni. In Germania si parla di 35 giorni. Se io parlo poi tra impresa e impresa, anche qui c'è una cattiva abitudine, un malcostume per cui si paga a 94 giorni nel 2014 in Italia, e anche qui è più del doppio dei tempi che si usano nel resto d'Europa. Se poi andiamo anche qui tra privato e impresa, ci sono qualcosa come 75 giorni. Ora, questi 75 giorni sono privati che una volta ricevuta la fattura pagano dopo 75 giorni. Questo mette in difficoltà le imprese. Anche questi tempi sono dalle 2 alle 3 volte i tempi medi europei. In particolare, se guardiamo la Germania in questo è leader nella serietà, nei tempi di pagamento, e i nostri tempi sono 3 volte quelli tedeschi. Qui Bortolussi, è un segno anche che la crisi ha colpito e ha colpito duro in Italia. Ha ragione, però attenzione, c'è anche chi, come diceva quell'amico da Cagliari, lucra sulla crisi, c'è chi capitalizza sulla crisi, siccome c'è difficoltà io non pago. Ora, questo è in parte giustificato dalle estreme difficoltà delle imprese. Lei vede che le piccole, per esempio, sono molto più puntuali, più del doppio delle grandi imprese. Questo ha un suo significato, anche se nei ritardi gravi le piccole imprese superano le grandi. Cosa significa? Significa che quando possono pagano, quando sono in difficoltà, non ce la fanno, vanno oltre i termini. Però c'è l'abitudine in certe imprese a pagare, ma se le banche non ti danno i soldi, se le grandi imprese di cui tu sei subfornitore ritardano i pagamenti, tu chiudi. Difatti i fallimenti per ritardo di pagamenti sono aumentati moltissimo in Italia. Siamo arrivati al discorso che un 25-30% delle imprese falliscono a causa dei ritardati pagamenti. Questa è una stima europea. Per l'Italia i dati, secondo me, sono superiori. Sono anche superiori, anche se non sono stati misurati al dettaglio. Certo. E sarà interessante anche indagare questo aspetto. Intanto, Marco Preti, c'è una differenza nella puntualità dei pagamenti, ci ha segnalato Giuseppe Bortolussi, tra piccola e grande impresa. Risulta anche dalla vostra rilevazione? Assolutamente vero, è un dato costante che registriamo in tutte le nostre rilevazioni. Le piccole imprese pagano molto più puntualmente rispetto alle grandi. Come lo spiega questo? Io penso che qui il dato sia legato alla forza contrattuale. Io ho bisogno delle forniture che mi arrivano da imprese più grandi di me, quindi sono tenuto a pagare regolarmente. E dall'altro lato io, che sono una grande impresa, posso anche concedermi forse qualche ritardo in più, dato che non perderò quel cliente proprio per le mie dimensioni. Questa è un rapporto di forza, diciamo. Secondo me sì, assolutamente, ed è una costante in tutti i nostri studi e in tutte le varie periodicità con la quale lo realizziamo. Aveva ragione Bortolussi quando dice che le grandi imprese poi alla fine pagano senza grandi ritardi, cioè hanno giusto questo elemento di non pagare puntualmente. Sulle piccole invece questa situazione, se vuole, doppia, che le stringe un po'. Da una parte io sono costretto a pagare molto velocemente, dall'altra parte ricevo i pagamenti con ritardo, fa sì che poi dopo si ritrovino in più grande difficoltà e aumentino i loro ritardi. Ma quanto costa essere pagati in Italia? Cioè quanto del fatturato ogni azienda deve dedicare al recupero dei pagamenti che le spetterebbero? Guardi, io ho fatto alcune stime legate al confronto con la Germania, perché secondo me questo tema dei pagamenti è un tema di competitività vero e proprio, oltre alle difficoltà che ci sono nel nostro paese. E dalle stime che ho fatto, fra oneri finanziari, organizzazione necessaria per poter essere pagati, perché credo di non dire qualcosa di sbagliato nel dire che in Italia nessuno paga puntualmente se non è in un qualche modo sollecitato, forse un po' forte, ma penso che sia così. Io credo che quindi fra tutti questi elementi il valore delle attività per essere pagati è attorno al 3% del fatturato. Cioè ogni impresa, ogni azienda, ogni artigiano deve pensare che il 3% del fatturato sarà dedicato a questa anomala, diciamo così, voce della gestione. Come essere pagati? Intanto andiamo dai nostri ascoltatori. 800 24 00 24, da Cagliari ci spostiamo a Verona, dove c'è Gianni. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Sì. Volevo un attimo, prima di tutto, fare una precisazione all'amico Bortolussi, che è vero che c'è l'IVA per cassa, ma l'IVA per cassa dura un anno. Dopo un anno, incassato o non incassato, lo Stato pretende il pagamento dell'IVA. Quindi va fino a un certo punto questa cosa dell'IVA per cassa. Chiaro, grazie per la precisazione. Io posso dire quello che è la mia storia, tra le tante, perché non c'è solo questa. Io ho subito un mancato pagamento di 357.000 euro da parte di un'azienda più grande, molto più grande della nostra, che ci ha messo quasi sul lastrico. Io ho tentato di tenere la barca a galla cercando di salvaguardare dipendenti e fornitori, quindi non essendo stato pagato, io i miei fornitori li ho pagati. Ma lei cosa ha fatto poi per rivalersi contro questa azienda? Perché dobbiamo entrare anche in questo aspetto. Come si ottiene il pagamento? E quando si è mosso, se si è mosso, Gianni? Allora, io mi sono mosso quando ho visto che per me il credito stava diventando insostenibile. Non riuscivo più a starci dietro. Mi sono mosso con i canali, con la giustizia, quindi andando da un avvocato e facendo un decreto ingiuntivo. Ed è bastato questo? Ma abbiamo in parte recuperato la cosa, perché poi l'azienda è tracollata definitivamente. Abbiamo cominciato questa storia nel 2009 e l'abbiamo conclusa la settimana scorsa, perché abbiamo ricevuto la proposta di concordato. Su 357.000 euro ne abbiamo recuperati grosso modo la metà. Gli altri, dopo 5 anni? No, li abbiamo recuperati prima. Il concordato è arrivato adesso è la definitiva proposta di chiusura che fa il liquidatore, l'amministratore straordinario. Quindi di fatto ci propongono sulla metà, la metà di fatto. Quindi andiamo a perdere, ma non sarebbe niente questa cosa qui. Il problema è che, non avendo pagato l'IVA, sono diventato un evasore fiscale ed ho un processo penale, perché l'IVA supera i 50.000 euro sulle spalle. Grazie. Sono un evasore. Grazie per questa confessione in diretta, una situazione, quella di Gianni, che ci è stata raccontata, avete sentito, da Verona. Tra poco vogliamo sentire anche le vostre, 800 24 00 24. Prima però vogliamo sentire sulle strade, autostrade italiane, cosa sta succedendo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E c'è anche questo di aspetto, quello di chi non paga l'IVA, Giuseppe Bortolussi, per una situazione, l'ha sentita, di credito decisamente insostenibile, 357.000 euro, l'attesa, i tempi del liquidatore, del concordato, nel frattempo un processo penale sulle spalle. Sorpreso, esatto. Lei? No, non sono sorpreso, i casi sono comuni, ce ne sono parecchi. Piuttosto mi permette di dare un'informazione che gran parte degli imprenditori conoscono, ma può essere utilissima: la sospensione dell'IVA. Quando io lavoro per un ente pubblico, io posso lavorare in sospensione di IVA, cioè non versarla come prevede la norma, annotandola nei miei registri, aspettando di essere pagato. Credo che chi lavora abitualmente per lo Stato, per gli enti pubblici, lo sappia, ma magari chi lo fa occasionalmente non lo sappia. Allora questa notizia diventa importante, perché non occorre che io anticipi l'IVA, aspetto di essere pagato dopo l'averso. Questo mi pare importante. Il discorso che le piccole imprese si trovano in difficoltà, vedete, quando si dice ma si può sollecitare, come diceva in maniera garbata Preti, sì, si può sollecitare, ma quando io mi ritrovo con un rapporto di forza per cui io sono debole, io sono piccola impresa, io sono subfornitore, e se reclamo non mi danno più il lavoro, molto spesso me ne sto zitto e aspetto pazientemente. E allora c'è una situazione... Bisogna credere anche in quello che si fa e anche in quello che si fornisce, come dire, perché altrimenti ci mettiamo tutti un bavaglio. No, ha ragione, però vede, ci sono delle situazioni particolari che le segnalo. Quando io ho comprato dei macchinari appositi per fare quel tipo di fornitura per anni, e ci vogliono anni per ammortizzarla, quando io ho comprato le materie prime per farlo, non posso dire basta, da oggi non ti fornisco più perché mi paghi in ritardo. Per esempio da noi nel Nord-Est, che è leader nei tempi di pagamento, cioè riesce a pagare secondo medie che non sono ancora europee ma ci vanno vicine, beh, quando si lavora per i tedeschi si è tranquilli, perché se il materiale è buono, è stato lavorato secondo le prescrizioni, poi i tedeschi ti pagano puntualmente. Non è così con gli altri italiani, per cui tu sei sempre in una situazione di estrema difficoltà, per cui tra le banche e la grande azienda che spesso fa cassa grazie alle piccole, cioè basta che una grande impresa non ne paghi una decina o 15, invece di andare a fare un prestito in banca se lo fa fare dalle imprese piccole. Cioè lei dice a volte le imprese piccole, i fornitori fungono da banca. Esatto, per la grande così, impresa. Basta che ritardino un po' e non hanno più bisogno di andare in banca. Per chi si fosse sintonizzato da poco, scusi Bortolussi, torniamo da lei, tra poco, vorrei ricordare alcuni dati macro. Sono cresciute del 40% le imprese che saldano i debiti con oltre un mese di ritardo rispetto a quando? A 12 mesi fa. Anzi, andando a vedere quante sono le imprese che hanno pagato alla scadenza le fatture ai propri fornitori, solo il 37,4%. Ma è vero, è meglio non sollecitare? Parleremo anche di questo. Prendiamo le vostre telefonate. Angelo, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Lei da dove chiama? Da Trapani. Proprio tutta l'Italia no, coinvolta, so, sì. con questo problema delle mancati pagamenti delle fatture. Dunque, ci dica, sì. Angelo. Allora, fortunatamente, come diceva Bortolussi, io lavoro con sospensione di IVA. Quindi, perché lei lavora per la pubblica amministrazione? Sì, sì, assolutamente, soltanto. Fornisce la pubblica amministrazione. Sì, sì, benissimo. Questo però non ci dà un grosso vantaggio, perché comunque ok non pagare l'IVA dal momento in cui non ci pagano le fatture, però questo ci limita anche la nostra linea imprenditoriale, cioè non riusciamo a espanderci, non riusciamo ad avere una professionalità e una incidenza sul lavoro molto molto importante. Questo ormai è una cosa cronica, cioè lo Stato attraverso le proprie aziende crea questo problema. Ma che ritardo medio registra lei nel pagamento delle fatture? Guardi, io ho fatture che mediamente ci pagano dopo 8, 9, 12 mesi, e questo è un dato ancora in aumento. E fondamentalmente poi c'è un dato, il dato è che se determinate fatture lavorate nell'anno in corso e non vengono saldate nell'anno in corso, e vanno nei residui, e quindi questi residui non possono essere, queste fatture non possono essere pagate nell'anno successivo, se non che se non c'è un diciamo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze uno stanziamento straordinario per effettuare i pagamenti di questi residui. Quindi, beh, questi sono tecnicismi del settore specifico in cui lavora. E grazie naturalmente Angelo da Trapani per questa testimonianza, che testimonia ancora una volta quanto costa alle imprese, non solo in termini economici, questi ritardi di pagamento della pubblica amministrazione, anche se noi oggi ci siamo concentrati su queste imprese che saldano i debiti tra loro. Così, spostandoci un po' da un tema invece molto più dibattuto, quello della pubblica amministrazione, con un ritardo oltre il mese. Andiamo in Peria. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei buongiorno. Si chiama? Sono Ezio. Salve, buongiorno. Ezio. Dica. Sono un imprenditore, lavoro nel campo dell'informatica. E vorrei dire due cose. Una, fondamentalmente, che da banca in questo periodo la stanno facendo anche i commercialisti, perché quelli che sono in passato sono stati molto maltrattati, a oggi stanno attraversando un periodo di grandissima difficoltà, perché i contribuenti prima pagano i fornitori e dopo pagano le tasse, e spesso e volentieri obbligano i commercialisti a fare da banca per conto loro. No, spezziamo una lancia, lei dice, anche a favore di questa categoria così bistrattata nell'immaginario comune, che ultimamente non solo sta agendo in maniera responsabile, ma spesso si accolla l'onere di tutto quello che sta accadendo. Ha fatto bene a segnalarcelo, non ne parliamo mai, Ezio, grazie. Continui. Secondo problema invece, le dico con che sto operando io. Noi per fatture di importi inferiori ai 2.500-3.000 euro, in caso di insoluti reali, cioè non ritardato pagamento, ma nel caso in cui il cliente proprio non paghi, noi ormai non agiamo neanche più in sede. Allora non lo pubblicizzi qua, perché altrimenti cominciano gli ordini. Appena lei riattacca con noi, cominciano gli ordinativi. Ma Ezio, quindi quando è che voi decidete che uno non vi pagherà più? Cioè, questo dopo quanti giorni decidete basta, è un caso perso? Sono superando i 150 giorni. Grazie per averci raccontato un po' come lavora e le problematiche che affronta tutti i giorni. E c'è una formula legata al ritardo. Marco Preti, lo chiedo a lei. Cioè, si parlava della possibilità di sollecito, della delicatezza del sollecito, dei timori del sollecito, visto che si teme poi anche di perdere la fornitura. Ma ci sono giornate, scadenze entro le quali è meglio sollecitare? Poi invece più il tempo passa e più arrivano altri fornitori da pagare, e quindi si rischia di scordarsi che la propria fattura possa in qualche modo essere onorata, o non esiste, diciamo così, un periodo migliore per richiedere il pagamento? No, esiste, mi faccia dare anche un senso di speranza, della possibilità che qualcosa si può fare. E base alla nostra esperienza, quello che io riesco a fare sollecitando il pagamento in maniera soft, sto parlando non di recupero crediti o minacce, in maniera soft, fra meno 15 giorni dalla scadenza della fattura a più 15 giorni dalla scadenza della fattura stessa, cioè significa quel mese poco prima e poco dopo la sua scadenza, i risultati che si ottengono con delle azioni semplici ma professionali, tipo telefonata, guardi, le dico cosa serve il meno 15, sull'esperienza della nostra azienda, un'azienda su tre chiamata a 15 giorni dalla scadenza della fattura dichiara di non averla ricevuta. Di non aver ricevuto la fattura. Esatto, già questo fatto di poter dire guarda che è stata spedita, te la rimando, c'è quella scadenza fra 15 giorni, ha un effetto esponenziale sulla possibilità di essere pagati. C'è un effetto psicologico. Quindi è già un consiglio pratico, ottimo. E poi invece il 15 giorni oltre la scadenza della fattura? La caduta percentuale della possibilità di recupero è drastica dalla scadenza della fattura a tutti i giorni successivi. 180 giorni sono davvero tantissimi per ottenere un pagamento, quelli che ricordava prima il signore che ha chiamato. Ovviamente prima io riesco a contattare il cliente, prima sono sul fatto e più probabilità ho di essere pagato e più probabilità ho di essere pagato senza gravi ritardi. E sul timore di rovinare il rapporto commerciale, lei ha qualche consiglio da dare? Io non credo che si rovini un rapporto commerciale se si evidenzia il fatto, così, se si fa un check se la fattura è stata ricevuta o se ci sono eventuali problemi per quel pagamento. No. Ci segnalano i nostri ascoltatori perché vergognarsi di richiedere quanto dovuto. A vergognarsi sono quelli che non pagano. Grazie per tutti i vostri contributi. Noi tra poco daremo la linea al GR. Grazie a Marco Preti, grazie a Giuseppe Bortolussi. Marco Preti, amministratore delegato di Cribis DM. E coloro che hanno stilato questo rapporto sui ritardi nei pagamenti, e Bortolussi invece il segretario della CGA di Mestre. Torneremo per parlare dell'insegnamento della lingua inglese in una modalità nuova da settembre nelle scuole italiane, infatti una materia intera al quinto anno degli istituti superiori verrà insegnata in seconda lingua, se sarà possibile, se avremo gli insegnanti formati per farlo. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. È proprio un nervo scoperto quello delle fatture non pagate. Infatti continuano anche durante il GR ad arrivarci gli SMS da parte di persone che vivono sulle proprie spalle tutte le problematiche legate al fatto che non ricevi quanto ti aspettavi di ricevere, non puoi fare programmazione, non puoi a tua volta, o insomma fai fatica a pagare i dipendenti. Soprattutto ci segnala Marco da Genova, si lavora per essere pagati, non per la gloria, quindi non esiste questo atteggiamento molto diffuso di stare zitti, di non richiedere quanto ci è dovuto. Quindi fate attenzione, perché lo segnalano in molti al 349-238-6666, parte del problema è anche questo timore riverenziale verso coloro che ci devono qualcosa. Attenzione, lo Stato che dà vitalizi e stipendi folli dovrebbe pagare i fornitori, la segnalazione di Enza, e poi ci sono anche i commercialisti che si uniscono al coro per dire che in questo periodo di dichiarazioni e adempimenti fiscali purtroppo si registra questo mantra della rassegnazione da parte dei clienti, aspettiamo e poi Dio provvede. Ed è vero, sottolinea Tiziana, quanto detto dall'ascoltatore, ormai è difficile per alcuni, non per tutti naturalmente, commercialisti, inutile generalizzare, arrivare ai ferri corti con i clienti, non mi paghi e io non invio l'adempimento. Attenzione, anche il commercialista va saldato, è un altro messaggio. Ma noi chiudiamo questa pagina perché ora ci occupiamo di scuola. Insegnare storia o scienze o matematica o filosofia in inglese nelle scuole superiori italiane scatta un'era nuova, è l'ora del CLIL, Content and Language Integrated Learning, questo acronimo che già vi abbiamo sciolto. A settembre, quindi tra pochissimo, i licei e gli istituti tecnici dovranno introdurre gradualmente l'insegnamento di una materia curricolare, quindi vuol dire non linguistica, cioè non stiamo parlando dell'inglese o del tedesco nei licei linguistici o del francese, il cinese, no, stiamo parlando di una materia non linguistica che va insegnata in seconda lingua. In questo caso in Italia c'è solo l'opzione dell'inglese, perché solo questa è stata prevista dal nostro ministero. Altrove non è così, anche se poi si parla di modello di Olanda e Finlandia. Siamo sempre esterofili, no? Bastava andare in Trentino e avremmo avuto dei modelli di bilinguismo e tra poco trilinguismo perfetti, ma chiaramente noi non guardiamo dentro casa ma fuori perché ci piace così. Il problema qual è? Bisogna partire la formazione degli insegnanti, visto che questa riforma che stabiliva questo era stata varata nel 2003, attenzione, dal ministro Letizia Moratti con la legge 53 del 2003. e ci si poteva attrezzare, giusto? Invece no. Doveva iniziare questa formazione nel 2010 e col solito metodo all'italiana è partita nel 2013. Ora genitori e studenti temono: chi insegnerà questa materia non linguistica ai nostri ragazzi e con quale formazione? Perché sembra che a questo punto i docenti formati, tra virgolette, sono solo un migliaio rispetto, queste sono cifre che circolano sui quei pochi articoli che sono usciti su questo tema, ai 16.000 che servirebbero. Attenzione però, adesso non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. L'Italia ha fatto, sta facendo passi da gigante, è vero, non tutte le sedi saranno pronte, non tutte le scuole, ne partiranno solo alcune di quelle che obbligatoriamente dovevano partire a settembre, però è comunque una riforma che va salutata non solo con benevolenza ma con entusiasmo. Queste alcune delle segnalazioni. Noi vogliamo sentire le vostre voci, come la pensate, 800 24 00 24 oppure con l'SMS al 349 238 6666. Buongiorno Gisella Langer. Buongiorno, mi sente? Buongiorno a tutti, mi sento? Mi sì, sentite? Langer forse non ho pronunciato correttamente il suo nome, Gisella. Spenga la radio però per cortesia, perché c'è un eco molto strano. Allora, probabilmente è l'altoparlante della cuffia dalla quale sto agendo? Beh, non usi, non lo so, non glielo so spiegare. Lei d'altronde non è una tecnica della comunicazione, ma lavora al Ministero dell'Istruzione ed è l'ispettrice tecnica per le lingue straniere. Allora, ci sono, come ha sentito, timori, se ne parla, si è descritta questa iniziativa. Cosa succederà esattamente? Questo ci stiamo chiedendo da settembre negli ultimi anni di istituti tecnici e licei in Italia. Cosa succederà? Innanzitutto bisogna mettere a fuoco il processo che si è avviato di profonda trasformazione di insegnamento, apprendimento di una materia in lingua straniera, ma anche di una riorganizzazione del curriculum. Lei ha accennato a un processo che è iniziato nel 2003 con una legge di riforma e ha fatto benissimo a ricordare i ritardi. Ritardi perché? Perché dal 2003 al 2010 non è stata attivata la procedura per avere dei regolamenti che organizzassero questo tipo di insegnamento. Dopodiché dal 2010 avremmo potuto attivare un po' più rapidamente il processo di formazione dei docenti, perché prima di allora non si poteva, perché non c'erano le modalità di attivazione di corsi di formazione per i nostri docenti. E però, come lei sa, le lungaggini nostre burocratiche richiedono percorsi lentissimi, richiedono tempi forse molto lenti. Ma scusi succederà? Gisella, sì, scusi sì. Se la interrompo. A prescindere dai ritardi, cosa si prefiggeva questa riforma? Cioè, a insegnare questa materia non linguistica, praticamente, dovrebbero essere stati i docenti. Ammettiamo, chiaramente purtroppo un'ipotesi, che tutto fosse andato bene, coi tempi giusti e stabiliti. I docenti quante ore di formazione avrebbero ricevuto per poi potersi mettere in cattedra a sentenziare di scienza, filosofia, matematica o quant'altro in inglese? Allora, se il docente aveva già una buona competenza linguistica, avrebbe dovuto fare dei corsi che richiedevano 1 o 2 anni di formazione. Dipende ovviamente da che livello partiva. Non so se voi sapete che in ambito linguistico abbiamo 6 livelli di formazione e il passare da un livello all'altro richiede determinati tempi. Quindi, se e che livello richiedete al termine della formazione al docente? Ecco, al termine della formazione richiediamo il 5° livello, il livello C1, che è un livello di padronanza della lingua. Perché? Perché insegnare una disciplina in lingua straniera richiede un'ottima capacità di interagire oralmente e soprattutto anche di leggere. Che il C1 non garantisce comunque, dottoressa Langer? No, garantisce al meglio, guardi che C1 è un ottimo livello, cioè l'ultimo livello, il C2, i livelli, ecco, forse non dovevo spiegarlo meglio. Il primo livello è A1, il secondo A2, il terzo B1, il quarto B2, il quinto C1 e il sesto C2. E il C2 è quasi madrelingua. Lei capisce che un quasi madrelingua non è un obiettivo facile da raggiungere nemmeno per un docente di lingua straniera. Il C2 quindi non è stato preventivato, ma il C1 è stato fissato come obiettivo. Ovviamente chi era a livello B2 poteva fare nell'arco di questi anni dei corsi che lo portavano al livello C1 e avere la competenza completa e totale. Proprio per questo motivo, non avendo ovviamente cominciato per tempo, siamo partiti chiedendo senz'altro la possibilità di insegnare all'interno delle classi con il livello B2, grosso modo. Ovviamente così ci siamo attrezzati dando delle indicazioni graduali e soft and gentle, diciamo. Cioè lei dice comunque è una buona riforma, è una direzione in cui andare, è comunque molto innovativa, anzi piazzerebbe l'Italia oltre quello che si fa in Europa e quindi più avanti, e se ci sono dei ritardi nell'avvio di questa programmazione cerchiamo tutti quanti di essere cooperativi, poco polemici, andare avanti, sarà un inizio graduale, ma arriveremo a cogliere l'obiettivo. Ho interpretato bene, ho riassunto bene, dottoressa Lange? Questo è un po' lo spirito del suo intervento. Perfetto. Cioè, lei dice abbiamo avuto le solite lungaggini, insomma, le solite disorganizzazioni tipiche. Ma anche la difficoltà, capisce, di attivare un cambiamento che veramente modifica profondamente la funzione docente. E di conseguenza non si può pensare di poterla fare in breve tempo. Quello di positivo è che non si è attivato un meccanismo di rifiuto. Anzi, sono molti gli insegnanti che hanno chiesto di essere formati in questo senso. Esatto, perché hanno capito che è fondamentale riuscire a svecchiare il nostro sistema creando delle nuove competenze. Di fatto questa riforma che attiva il CLIL e soprattutto questa metodologia è molto attiva, molto interattiva e molto cooperativa, perché un docente di discipline non linguistiche non potrà assolutamente operare all'interno della classe bene se non attiverà dinamiche cooperative con i docenti di lingue straniere o con assistenti linguistici oppure anche con altri docenti di altre discipline, perché nel momento in cui lei attiva dinamiche interdisciplinari sa benissimo che non è una bilateralità o trilateralità cooperativa che si sviluppa, ma è una complessività di interazioni che veramente creano quei curriculi per competenze sui quali la nostra riforma è basata. Grazie e grazie, rimanga con noi, vogliamo sentire anche gli ascoltatori 800 24 00 24. Io ho visto molte volte questa l'applicazione di queste dinamiche full immersion, cioè dell'allievo che si trova non a studiare l'inglese o qualunque altra lingua, ma a svolgere compiti, mansioni scolastiche in un'altra lingua, e l'efficacia è assolutamente indiscutibile. Pronto, c'era con noi una ascoltatrice da Trento che tra poco torna, perché è interessante anche vedere sul campo in quelle province dove già è stato applicato questo tipo di metodo di insegnamento della lingua quali sono i risultati. Intanto grazie a Silvia Ruggeri per essere con noi, buongiorno e benvenuta Silvia. Buongiorno, intanto mi scuso ma non vengo dal Trento, io sono della provincia di Lecce. No, lei è un insegnante, stiamo aspettando anche un'ascoltatrice che nel frattempo è caduta d'accordo. E che ci era apparsa sul monitor e chiamava da Trento. Silvia Ruggeri è un insegnante, provincia di Lecce, ed è una dei docenti CLIL, come siete stati soprannominati. Cioè chi siete? Lei cosa insegna, Silvia? Io insegno matematica e fisica presso il liceo Capesce di Maglie e da settembre. C'è un liceo scientifico? È un liceo denominato liceo classico, ma all'interno del liceo ci sono quattro indirizzi: l'indirizzo classico, lo scientifico, il linguistico di ordinamento e il linguistico con opzione spagnola. Quindi lei, professoressa Ruggeri, insegna matematica, insegna materie scientifiche? Insegno matematica. fisica, ma ho avuto per diversi anni classi dell'indirizzo scientifico Brocca e a partire dalla novità CLIL mi è stata assegnata una classe dell'indirizzo linguistico di ordinamento della nuova riforma. Da settembre avviare... lei quindi comincerà qualcosa di completamente nuovo per la sua carriera di insegnante? Del tutto nuovo non lo è, perché abbiamo già avviato in Puglia la sperimentazione, perché sono ormai 3 anni di formazione che abbiamo seguito e finalmente conseguito il titolo conclusivo con il corso di perfezionamento organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia in collaborazione con il CLA, il Centro Linguistico dell'Ateneo di Foggia. E quindi ormai qui in Puglia ci sono dei docenti formati, certo siamo ancora molto pochi, pensare per esempio in provincia di Lecce abbiamo conseguito questa formazione comprensiva di certificazione linguistica C1 come le aveva già detto l'ispettrice Lange, e di corso di perfezionamento che ha previsto 20 CFU e previsti sia in modalità in presenza sia online, e quindi abbiamo già avviato una sperimentazione nelle nostre classi linguistiche. Cioè lei ha già insegnato matematica in inglese? Sì, però per via sperimentale. Quindi sì, per... ma al di là dell'inquadramento tecnico, lei si è già trovata di fronte ai ragazzi delle superiori a insegnare matematica in inglese. Ah, quindi sì. Ci può raccontare di questa sua esperienza? Come l'hanno presa i ragazzi? Intanto purtroppo spesso passa questo messaggio, matematica in inglese che lei sta usando solo ora, però prima ha detto benissimo che cos'è il CLIL. In realtà col CLIL non vogliamo insegnare una disciplina non linguistica in una lingua straniera, ma vogliamo semplicemente, molto sbagliato come verbo, vogliamo in realtà non essere, supplire al lavoro dei colleghi di lingua straniera, assolutamente non è di nostra competenza. Allora cosa volete fare? Vogliamo cogliere l'occasione dei contenuti della nostra disciplina, nel mio caso matematica oppure fisica, per approfondire anche aspetti linguistici, perché inevitabilmente in ogni disciplina ci troviamo di fronte in realtà alla microlingua, quindi ad un aspetto linguistico che è caratteristico di quella lingua, e quindi troviamo la vera applicazione della lingua e non degli esercizi per esempio linguistici che potrebbero essere più teorici, quindi possiamo per esempio partire da articoli scientifici, da articoli presi su riviste, ma anche da siti che ormai sono ben organizzati. Certo il lavoro è molto molto intenso e comporta, come è stato già detto, sicuramente la cooperazione tra docenti di diverse... Sì, ma al di là dei docenti, i ragazzi come hanno reagito a questo stimolo? I ragazzi reagiscono sicuramente bene, però sono anche ben consapevoli di quanto lavoro ci sia dietro, perché la mia formazione ha previsto anche che io abbia seguito i corsi di formazione, purtroppo non nella mia sede. Io per esempio sono stata nella provincia di Taranto a seguire il corso linguistico e a Bari per il corso metodologico di perfezionamento. E quindi tra poco metteremo in luce anche queste difficoltà e queste richieste dal punto di vista del riconoscimento degli insegnanti. Sentiamo voi intanto 800 24 00 24, pronta Anna Maria, buongiorno. Ah, buongiorno. Io sono molto perplessa rispetto a questa iniziativa, che è eccezionale perché noi scontiamo i ragazzi e la nuova generazione, ma anche questa appunto generazione che vive, no, con la musica, lo sempre musica straniera, insomma la musica in inglese, però diciamo la competenza linguistica da parte degli insegnanti deve essere elevata. Io ripeto, non so se ho già detto, insomma, no, lei, ho fatto un percorso di studi linguistico, sono traduttrice interprete, ho fatto l'università Ulm a Milano, e ho fatto tutte le vacanze all'estero, sono un perfetto esempio di un italiano che impara la lingua attraverso il canale scolastico, con insomma, corsi all'estero, eccetera. Ne ho fatto una carriera. Il problema è che ho avuto occasione di insegnare inglese, fare lezione di inglese privata con fattura a gli insegnanti. Grazie, che, grazie per la precisazione, è stato pagato in tempo. No, no, ci tengo molto anche perché sì. Insomma, ho trovato veramente purtroppo una assoluta impreparazione, un grande impegno, una buona volontà incredibile, però la competenza linguistica è una cosa seria, cioè come si fa a fare uno scambio di filo interno della sua materia in filosofia o senza avere a disposizione una serie di sfumature linguistiche. L'inglese poi, soprattutto, è una lingua estremamente sintetica e attraverso il verbo esprime proprio l'intenzionalità, la progettualità, insomma. Ecco, intendo dire, e il livello che è stato richiesto, prima C1, poi abbassato basso, a B2? È assolutamente basso. Cioè, mi spiego meglio. Per esempio, se lei fa, come lei saprà benissimo, se un avvocato esperto nella propria materia conduce, qualunque in lingua, sarà molto competente, molto più competente di una persona che ha una conoscenza linguistica buona, ma non è competente in quel settore. Non so se certo, non ha la conoscenza specifica tecnica, ma è chiarissimo, professoressa. È fondamentale. È chiarissimo. E infatti è un po' il timore che questa riforma, insomma, parta così un po' azzoppata, non tanto e non solo per le problematiche nei ritardi organizzativi, ma anche per come è delineata la formazione dell'insegnante. Siccome gli insegnanti in Italia, l'abbiamo sentito anche dalla professoressa Ruggeri, poi in realtà suppliscono con risorse loro spesso alle lacune del sistema, per cui molti di questi docenti, quelli che oggi hanno la certificazione per fare questi interventi dalla cattedra, pensate che si sono pagati i viaggi di studio da solo, si sono acquistati libri da solo e anche altro materiale connesso, penso a DVD e ad altro materiale per l'acquisizione della lingua, tutto ciò per poter avere questa metodologia CLIL, a fronte del fatto che non c'è stato nemmeno un riconoscimento dal punto di vista proprio salariale, eppure molti l'hanno fatto. Questo è quanto spesso i professori in Italia fanno, cioè sono docenti che si trovano ad agire in un sistema molto lontano dall'essere perfettamente organizzato e che si fanno carico nel loro tempo libero, in questo caso addirittura con risorse loro, di quello che dovrebbe provvedere e dovrebbe essere assicurato dal Ministero. Abbiamo un altro docente, anzi ex vicepresidente dell'Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere, Gianfranco Porcelli, buongiorno e benvenuto naturalmente. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, a Gisella Langen e a tutti. Qua ci dicono gli ascoltatori che se uno vuole insegnare storia dell'arte, letteratura italiana o filosofia in inglese senza banalizzare i contenuti deve essere madrelingua e basta, altrimenti c'è un impoverimento culturale, ce lo segnala Luca. E poi ci sono docenti che vorrebbero dirci, insomma, darci il loro input. Io ho capito dalla professoressa Ruggeri che in realtà la pretesa non è proprio di insegnare, ma prendere in esame anche degli articoli scientifici se si insegna matematica, degli articoli sulla tematica arte se si insegna arte. E dove sta la verità? Perché ci sembra che le indicazioni del Ministero dell'Istruzione, e noi naturalmente ci siamo letti anche tutte le norme transitorie, siano piuttosto di suggerimento, non sono molto precise, diciamo. Diciamo che bisogna allora distinguere tra ciò che tecnicamente noi chiamiamo il vero CLIL, cioè il CLIL nel senso originario, di cui si parla tra l'altro da 20 anni, e nel 1994 che in Europa sono esplosi i primi studi, anche in Italia subito dopo sono anche iniziate delle sperimentazioni, cioè a livello sperimentale si è fatto molto, e l'ispettrice Nangè è coautrice anche di di lavori importanti che risalgono già a una quindicina d'anni fa, almeno adesso non ricordo esattamente la data. Al di là dei riconoscimenti, no? Siamo in radio, diamo per scontato che tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto si stimino a vicenda. Veniamo a cercare di rispondere ai dubbi, agli interrogativi di genitori e alunni che si chiedono come andrà. Allora, è importante chiarire che di per sé, concettualmente, CLIL vuol dire apprendimento di contenuti nuovi in lingua straniera, cioè si differenzia dal fatto che quando io insegnavo all'istituto tecnico commerciale, perché ho fatto anche quello, sì, insegnavo in inglese cose che gli studenti già conoscevano in italiano, quindi sostanzialmente insegnavo la terminologia. In una quinta superiore occorre preparare all'esame di Stato studenti insegnando loro materia nuova, la materia del programma di quell'anno, nella lingua straniera conosciuta dagli studenti, che a volte non è la lingua straniera che conoscono i docenti, perché lingua straniera è un'astrazione, non esiste, in realtà esistono l'inglese, il francese, eccetera. Ma professor Porcelli, lei che è stato membro di commissioni ministeriali, ha lavorato con l'Irlanda, con il Canada, l'Argentina, insomma ha delle collaborazioni pedagogiche internazionali incredibili. Ci aiuti a immaginare a settembre una lezione al quinto anno di un istituto tecnico o di un liceo. Cioè lei entra in classe ed esattamente cosa fa, cosa farebbe se fosse lei l'insegnante e quale sarebbe la reazione dei ragazzi? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Stiamo cercando di capire insieme a voi come verrà insegnata la scienza o la storia in inglese, come è stato detto su alcuni articoli di giornali. Di fatto, tra poco, da settembre, nei licei, negli istituti tecnici italiani, verrà, però si dice gradualmente, questo non si capisce esattamente cosa significhi, introdotto il CLIL, che prevede nel quinto anno l'insegnamento di una materia in lingua inglese. È una metodologia che verrà introdotta per gradi, perché al momento i docenti che hanno ricevuto una formazione che permetta loro di insegnare una materia in lingua sono ancora pochi. Ne stiamo parlando con il vicepresidente uscente dell'Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere, Gianfranco Porcelli, perché è portatore di grandi esperienze e studi in questo settore. Allora, professor Porcelli, facciamo finta, suona la campana, sono le 8, entriamo. No, quinto anno, che succede in questa classe? Lei che è l'insegnante di, posso dire, storia dell'arte, va dietro la sua cattedra e cosa fa? Allora, io faccio qualcosa che ha senso se mesi prima ho fatto qualcos'altro, e cioè ad esempio la scelta di un libro di testo o di altri materiali, perché oggi non c'è solo quello, ci sono nell'epoca del web 2.2 naturalmente, 2.0, ci sono molti altri strumenti, materiali di supporto. Bisogna pensare in termini di sistema, nel senso che... No, no, ma noi pensiamo in termini di sistema, continuiamo con questa sorta di fotografia della classe quinta in settembre, ci interessa questo. Allora, entra il professore che ha pensato in termini di sistema, che si è fermato, va dietro la cattedra, cosa fa? Fa quello che farebbe in italiano, cioè... organizza la sua lezione. Lei parla di storia dell'arte, sì. Penso che potrebbe partire da diapositive o da illustrazioni del libro di testo, ne parla in inglese assumendo, e questo è l'altro punto di cui non si è parlato sufficientemente, assumendo che il collega, la collega di lingua straniera abbia, se insegna un liceo scientifico, non sia andata avanti a insegnare letteratura straniera come si è sempre fatto nei licei scientifici, ma abbia preparato quella classe ad ascoltare, a prendere appunti, a orientarsi su testi che non sono letterari ma hanno un tipo diverso di testualità che è quella scientifico-tecnico-professionale. Cioè, poi si rivolge ai ragazzi per dire loro... Di per sé entra e anziché parlare italiano, parla la lingua di cui di cui gli si deve servire. Ma per dire loro, non so, spegnete il cellulare, tra 10 minuti è finita, si rivolge ai ragazzi in inglese, è una full immersion o continua ad alternare i due registri linguistici? Guardi, è meglio che si serva sempre della lingua straniera, anche perché si spera che sentirsi dire spegni il cellulare, vieni alla cattedra, eccetera, quegli studenti se lo siano sentito dire sin dalle elementari, nel senso che sin dalle elementari si comincia a studiare, scusate, adesso si chiama scuola primaria, io sono antiquato, quindi sin da allora si comincia nella scuola a fare inglese, si presume che il cosiddetto classroom English, français de classe, eccetera, cioè il linguaggio della comunicazione spicciola in classe, sia stato acquisito da anni. Quello non è un problema. Il problema è che gli studenti siano in grado di, appunto, prendere, di fare nella lingua straniera quello che farebbero in italiano in occasioni analoghe. Cioè... Grazie per questa simulazione via radio, comunque importante. Ora abbiamo capito qual è l'obiettivo, poi si realizzerà, come è stato detto, per gradi. Ci segnalano i nostri ascoltatori 349-238-6666 di aver fatto storia dell'arte in inglese ed è stata un'esperienza molto bella e utile. Ce lo racconta una ragazza che ora è una studentessa universitaria e se fosse l'insegnante d'inglese, suggerisce qualcuno a volere poter insegnare matematica e italiano, forse sarebbe più giusto. Questo è uno stimolo che arriva da Bari e viene da Rosy. È chiaro che ci sono domande, perplessità, ma ci interessa illustrare comunque una strada, un percorso che l'Italia sta per intraprendere, ma abbastanza nel silenzio, visto che non se ne dibatte, non se ne parla molto, e che nonostante queste gradualità iniziali inevitabili porterà a dei risultati interessanti. Andiamo ora nella provincia di Trento, dove c'è Paolo, ha preso la linea al numero, lo ricordo, 800 24 00 24. Paolo, buongiorno. Pronto? Buongiorno a voi. Sì, pronto. Racconti la sua esperienza. Allora, io sono un padre di due bambini che abbiamo iscritto a una scuola elementare che operava in CLIL dal primo anno dell'elementare, appunto. Ormai sono 5 anni, perché il più grande ha 11 anni, quindi l'anno prossimo va alle medie. Da 2 anni, 3 anni abbiamo anche avuto l'esperienza di ragazze alla pari tutte le estati. E sostanzialmente dal secondo anno ci siamo accorti che questo sistema funziona veramente molto perfettamente, bene, chiaro. I bambini in questo momento sono, non dico perfettamente bilingui perché è difficile dirlo, però ci rendiamo conto che nel momento in cui li lasciamo 5 minuti, 10 minuti con una persona che parla soltanto inglese, sono sostanzialmente in grado di vivere la loro vita in inglese senza neanche pensare in italiano, cioè ragionano, certo, proprio, no, esatto, in una maniera diversa. Quello che è importante, poi questo chiaramente lo affermano tutti i pedagogisti, è il non tradurre, cioè proprio il fare il click del cervello. Esatto. Quando si pensa in un'altra lingua, si pensa in un'altra lingua, e questo avviene, lo noterete anche voi se avete avuto questo tipo di esperienze all'estero. I suoi figli sono hanno seguito queste lezioni in questa scuola elementare dove si adotta il CLIL, e che percentuale di materie veniva fatta in inglese? Allora, la totalità? Lavorano su circa 15-16 ore alla settimana di inglese con una maestra madrelingua, quindi con cui c'è difficoltà anche ad esprimersi in italiano con noi, cioè voglio dire, anche per, certo, noi è difficile comprendere. Abbiamo passato parecchie insegnanti inglesi, canadesi, americane, e questo secondo me è un ulteriore arricchimento, se vogliamo, perché implica nei bambini la comprensione di tutti gli accenti possibili e immaginabili, e questo secondo me è un arricchimento enorme. Grazie mille, grazie a Paolo che ha fatto anche un riferimento al problema, si chiama problema secondo alcuni, degli accenti. È un problema a cui gli italiani sono molto legati, molto attenti, l'accento, la pronuncia, quando in realtà è risaputo che l'86% delle persone che si esprimono perfettamente in inglese nel mondo non sono madrelingua e quindi hanno un accento, e gli anglofoni sono molto meno sensibili a questo aspetto, che invece è un'indicazione dell'internazionalità di questo strumento. Quindi abbiamo il problema degli accenti già segnalato anche da alcuni sms al 349-238-6666. You say either, I say either, you say neither, and I say neither, either, either, neither, neither, let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato, you like tomato, and I like tomato, potato. Grazie, grazie. La regia è eccezionale perché ci ha ricordato, è un problema non nuovo con questa canzone meravigliosa che ci ha proposto in mezzo a questa nostra conversazione. 800 24 00 24, tomato, tomato. Caterina da Ferrara, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Ha sentito anche questa problematica, diciamo così, degli accenti. Lei che cosa fa, Caterina? È un genitore? No, io sono il dirigente scolastico e il fondatore di una scuola internazionale da 15 anni, privata, paritaria per quel che riguarda l'infanzia e la primaria, e poi con la scuola media, e quest'anno apriamo il liceo. La nostra particolarità è proprio quella di insegnare in CLIL, tutte le materie vengono insegnate in CLIL, partendo... Dove? In che città? Lei da Ferrara, giusto? A Ferrara, sì. Tutto in CLIL a partire dai 2 anni. Dall'asilo nido addirittura. Non è proprio l'asilo nido, è la sezione primavera, quindi bimbi che fanno fra i 2 e 3 anni, che vogliono anticipare, però tutta la materna e tutta la primaria, tutte le materie vengono insegnate in inglese, da insegnanti madrelingua inglesi, dalla prima... Quindi voi non avete insegnanti italiani formati, sì, col CLIL, voi avete solo madrelingua. Abbiamo anche insegnanti italiani formati col CLIL, bilingui. Sì. Quello, una delle cose che appunto secondo me è impossibile sostenere è che un C1 possa insegnare una materia in inglese. Ora è già molto difficile fare una bella lezione di scienze. Un'insegnante brava in scienze che non ha già un livello C2 non riuscirà mai a fare una buona lezione di scienze in inglese. Chiaro. E vuole la padronanza perfetta. Perfetta, anche perché c'è il problema delle richieste degli studenti, cioè al quinto anno i 17enni, i 18enni italiani, la permanenza all'estero piuttosto che la dimestichezza con l'inglese, anche quando non il bilinguismo, per molti è un patrimonio acquisito. Quindi chiaramente c'è una richiesta di competenze, per questo prima dicevo della simulazione in cattedra, che sarà molto elevata. Cioè non è come insegnare una lingua a cui ci si espone per la prima volta, a cui magari di cui non abbiamo mai sentito quasi il suono. L'inglese è praticamente parte della vita quotidiana. Caterina, lei dovendo essere chiamata, diciamo così, alla commissione ministeriale che si occupa di queste cose, che consiglio darebbe, come imposterebbe allora questa possibilità? Perché non tutte le scuole italiane possono assumere eserciti, certo, interi di madrelingua. Certo. Cosa salvare allora di questa? Allora, prima di tutto un errore secondo me grandissimo è partire dalla quinta. È un anno poi tra l'altro molto delicato, la quinta, in cui i ragazzi sono nervosi in un certo modo, tutto, quindi partire assolutamente dalle prime, dove c'è, diciamo, ancora tempo di fare qualcosa. Cercare per l'istituto che funziona con le CLIL di avere almeno un insegnante madrelingua che possa collaborare con quegli insegnanti che si sentono pronti e preparati e sicuri, perché lei sa che insegnare una materia non essendo preparata e sicura diventa un dramma, un fallimento per l'insegnante che non riesce a comunicare ai ragazzi quello che deve comunicare. Quindi io partirei assolutamente dalle prime, cercando di dare a loro una base precedente. Noi, per esempio, quest'anno che iniziamo al liceo, abbiamo fatto 15 giorni di full immersion di inglese ai nostri iscritti in giugno, finita la scuola, e ne faremo altri 15 in settembre, prima dell'inizio della scuola. Certo, abbiamo magari delle possibilità in più, però credo che questo potrebbe essere un progetto molto interessante, e poi assolutamente partire dalle prime. Caterina, grazie per questa testimonianza, chiaro, diversa, perché qui avete sentito una scuola privata, questa era la cosiddetta preside, cioè il dirigente scolastico, dove si insegna tutto in inglese, però ha una testimonianza importante, perché parte dall'osservazione empirica di quello che succede, e non è l'unica, sono tantissime le segnalazioni che ci state facendo di scuole elementari seguite dai vostri figli in cui già si insegna l'inglese, e l'italiano quando lo imparano, ci chiede anche Marzia. È chiaro che una acquisizione, una nuova competenza non deve essere fatta a danno di altre. Mariella Ferrante, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la pazienza, lei è presidente di DS Lombardia e ha cercato, DS innanzitutto cosa significa? Allora, DS vuol dire didattica e innovazione scolastica, siamo un'associazione di insegnanti presenti a livello italiano, io mi occupo del livello lombardo, e seguiamo gli insegnanti ma anche i dirigenti e il personale della scuola nel loro cammino scolastico, facendo corsi di formazione, momenti di lavoro comune, presenza nell'ambiente. Quindi lei ha avviato questi corsi di formazione per gli insegnanti? Ma noi insegnanti abbiamo iniziato, non linguistici, sì, diciamo, un lavoro, diciamo, di corsi linguistici, quindi per le competenze B2 e C1, poi i nostri insegnanti che partecipano ai nostri lavori vanno a farsi certificare negli enti riconosciuti, perché il certificato può essere rilasciato solo dagli enti riconosciuti. Quindi... Mentre stiamo lavorando per poter arrivare in collaborazione con l'università che è designata a far questo, dei corsi di metodologia CLIL, che però non sono ancora partiti per tutti gli insegnanti degli istituti tecnici e dei licei, sono stati fatti solo l'anno scorso per quanto riguarda nel 2013, per quanto riguarda gli insegnanti dei licei linguistici statali. Quindi siamo un po' in ritardo, anche in Lombardia c'è, sì, questo ritardo. Sì, dappertutto, cioè non è solo un problema lombardo questo, un problema generalizzato. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ci sono anche casi psichiatrici, però, posso dirlo? Cioè, per esempio, questo SMS qua, no? Ha preso nota degli errori di italiano di Radio 24 dal 30 settembre e li elenca tutti. Non è che una qualità che non è inammissibile che provenga da questa radio e trasmette, poi indica la trasmissione, tu mi parlavi che è uscito in diretta un altro conduttore, questo è successo il 9 ottobre alle 21:36. Ma grazie per queste segnalazioni, ma visto che si parla d'inglese, get a life, cioè veramente, ci sono dei casi di una petulanza incredibile. E comunque, tornando invece agli SMS di persone che sono interessate alla sostanza delle cose, occorrono insegnanti madrelingua dalle elementari, figuriamoci alle superiori, un'altra sottolineatura da parte di Luca. Verrà insegnata dal quinto anno una materia in lingua inglese in alcuni dei licei, degli istituti tecnici, quelli che saranno attrezzati. In realtà doveva essere una situazione omogenea, questo l'ha detto con molta franchezza anche l'ispettrice tecnica per le lingue straniere, oggi nostra ospite. Non si può garantire da settembre. Gisella Langé, la ringrazio innanzitutto per la franchezza con cui ha ammesso l'esistenza del problema, ma le giro questa segnalazione che ci arriva da molti: perché non dal primo anno? Perché avete scelto l'introduzione del CLIL dal quinto anno? Non è stata una scelta dell'amministrazione, ma una scelta legislativa. La legge del 2003 ha attivato questa modalità e sono d'accordo che sarebbe stato meglio diluirla nell'arco degli anni piuttosto che un ultimo anno solo in lingua straniera. Però il legislatore così fece nel 2003. Abbiamo cercato cercato di apportare dei cambiamenti, ma cambiare, come sa, una legge è estremamente difficile. Proprio per questo motivo il Ministero ha adottato una linea graduale. In tempi, ripeto, che richiederanno un 10-15 anni per un'andata a regime vero. E proprio per questo motivo si è suggerito per i licei linguistici di norma un 50% dell'attivazione della materia in lingua straniera al quinto anno e per invece gli istituti tecnici e gli altri licei indicativamente, preferibilmente un 50%, il che vuol dire che la scuola in base alle disponibilità di competenze, e non dimentichiamoci che molte delle nostre scuole ospitano assistenti madrelingua perché sono in progetti di scambio, perché aderiscono all'Erasmus prima, il Lifelong Learning Program, e perché anche esistono attività di scambio tra varie scuole. Sul discorso dell'anticipazione agli anni precedenti, sicuramente tutti hanno ragione, cioè prima si parte a livello di scuola secondaria superiore, meglio è, e questa sarà un po' una linea che probabilmente verrà lanciata con una speciale azione che verrà illustrata in settembre. Volevo però anche mettere in evidenza come questi anticipi avvengano già anche nella scuola primaria. Ad esempio in Lombardia è stato lanciato sperimentalmente un progetto che oramai è al quarto anno e il prossimo anno sarà al suo quinto anno, che vede il 25% del curriculum in lingua straniera. Quello che lì in quel caso è in collaborazione col British Council. Esatto, in quel dunque caso sono insegnanti madrelingua a farlo, esatto. Non sono gli insegnanti. No. Allora la sfida è cercare di avere dei docenti italiani che sono in grado di gestire da soli questo processo. Perché? Perché non saremo mai in grado di pagare insegnanti madrelingua per tutte le scuole italiane. Faccio presente che il CLIL è una scelta democratica di offerta formativa che non esiste appunto in tutti i paesi d'Europa e che nel nostro paese ha detto l'opportunità di essere immersi in una situazione di apprendimento in lingua straniera è una situazione che deve essere offerta non ad alcuni corsi privilegiati, come avviene ad esempio in determinate scuole in Olanda. Non è vero che in Olanda tutte le sia scuole diffuso fanno, in maniera uniforme? Assolutamente, cioè ci sono scuole dove c'è il corso CLIL. Questa sfida all'ultimo anno è stata una sfida, diciamocelo in termini chiari. E come tale deve essere vissuta anche dagli insegnanti, un po' il senso del suo intervento. Grazie a Gisella Lange. Andiamo in provincia di Bergamo, dove ci sta aspettando Edoardo. Buongiorno, pronto? Buongiorno. Dica Edoardo. Allora, io volevo portare la mia esperienza e fare una piccola critica. Preferirei fare iniziare l'insegnamento dall'asilo. E porto come esperienza questa esperienza di una bambina di 3 anni che è andata in Nigeria perché i genitori lavoravano là, è andata a lavorare, a studiare, cioè l'hanno mandata apposta in una scuola inglese, era solo inglese, però in 6 mesi questa bambina è diventata praticamente madrelingua inglese, quindi a mio parere si potrebbero risparmiare anche risorse mettendo degli insegnanti inglesi che parlano solo inglese fin dall'asilo. Io sono sicurissimo in 3 anni questi bambini sarebbero madrelingua italiana e madrelingua inglese, e dopo se ci sono risorse si può andare avanti, se no già lì avrebbero una base che non acquisiranno mai successivamente, perché ormai ci sono quello che è successo a me. Io ero in Nigeria, sono andato a scuola italiana, ho imparato sì l'inglese e giù lì facevano tanto inglese, però mai a livello di madrelingua. Quindi lei dice concentriamo le risorse sui gradi non elementari ancora prima, perché è lì che bisogna intervenire. Poi invece sulla sua affermazione non si acquisirà mai un bilinguismo così perfetto alle superiori, sentiamo anche il parere degli esperti. Gianfranco Porcelli, professor Porcelli, è vero? Passato una certa età non c'è più possibilità? Io ho cominciato a studiare l'inglese a 14 anni, perché prima avevo studiato spagnolo, mi ero trovato qui a Milano in un corso di spagnolo, e devo dire che in varie occasioni in Inghilterra, in Irlanda, negli Stati Uniti, in Canada, sono riuscito a passare per un parlante di madrelingua. Ora, se ci sono riuscito perfino io, penso che la cosa non sia così impossibile. È vero, cioè, la psicolinguistica ci insegna che è bene aver iniziato a comunicare in un'altra lingua diversa dalla lingua materna prima della soglia della pubertà, dopodiché veramente ci sono delle difficoltà. Ma una volta che è scattato il meccanismo di acquisizione di altre lingue diverse da quella materna in tempi sufficientemente precoci, poi altre lingue si possono aggiungere a livello valido anche dopo. Quindi diciamo ci sono, c'è un'individualità che va. E quindi è anche vero che però l'acquisizione. Non è vero assolutamente che non si possa raggiungere un livello C2 di cui si parlava prima se non si comincia all'asilo. Senta, professore, è anche vero, come sottolineano poi, e lo chiedo da lei, un esperto, e ha lavorato veramente con i pedagogisti di tutto il mondo, che come sottolineano tanti professionisti della pedagogia, che il bilinguismo aiuta le competenze non solo nella lingua, ma addirittura le acquisizioni generiche, la capacità cognitiva in tutte le altre materie. È una cosa che è assodata sin dal 1979, mi pare, gli studi di Penfield in Canada hanno appurato che i soggetti bilingui sono altrettanto competenti nelle due lingue, partendo da situazioni di full immersion o di scambio, cioè una lingua a scuola e un'altra lingua a casa, ma si è visto che quei soggetti erano significativamente migliori degli altri in materie come arte, come musica. Qui c'è tutta una storia che qui non possiamo affrontare di bimodalità cerebrale, cioè l'emisfero destro del cervello, che è quello che poi presiede a una percezione globale e quindi anche al senso estetico, al senso musicale, eccetera, viene sviluppato dall'acquisizione di altre lingue. E in questo quindi sono molto avvantaggiati infatti i ragazzi e gli studenti degli immigrati, come ci sottolineano altri insegnanti che ci hanno raggiunto via messaggio. Grazie. Grazie naturalmente a tutti voi, a Gianfranco Porcelli, Gisella Lange, Mariella Ferrante, Silvia Ruggeri, voi che ci avete chiamato. Si conclude qui questa puntata di Spunti di Vista, una trasmissione che vi dà appuntamento a domani mattina alle 8:15. Da Irene Zerbini un saluto e un augurio di un'ottima giornata. Spunti di Vista, i mille aspetti dell'attualità.